avait des yeux d'opale qui me fascinaient, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, che ne fate dei vostri abiti che non usate più? È un tema importante, me ne rendo conto. Diciamo che adesso è settembre, è ora di cambiare il guardaroba, di vuotare gli armadi, e si riappaiono improvvisamente giacche, abiti, pantaloni, abiti in generale che anno dopo anno stratifichiamo nei nostri armadi, che però obiettivamente non mettiamo più. La maggior parte di noi ne è legata per legami affettivi, probabilmente per averli caricati del ricordo di particolari occasioni in cui sono stati indossati, o per chi ce li ha regalati, o perché li abbiamo messi in momenti in cui eravamo particolarmente felici. Poi abbiamo gli abiti delle persone care, chi tiene gli abiti delle persone scomparse, gli abiti dei bambini che sono cresciuti, i figli crescono e i loro abitucci ci ricordano i begli anni in cui erano giovani. Insomma, abbiamo una massa di vestiti dentro casa di cui non sappiamo cosa farci. La maggior parte delle persone, le persone più a modo, più educate, memori degli insegnamenti di generazioni ormai passate sepolte, li manda in tintoria, li mette a posto, li aggiusta e mette in dei sacchi e poi li porta nei luoghi di raccolta, vuoi le parrocchie, vuoi altri posti, non so, ci sono dei grandi raccoglitori di abiti usati, oggi di questo vorremmo parlare. Altri li provano a rifilare a qualche colf, a qualche domestica che sempre più spesso storce la bocca, come per dire, ma che pensi che sono l'ultimo anello della catena del benessere per cui puoi dare i tuoi vestiti scalcagnati, ma guarda che io vesto molto meglio di te. Altri ancora provano in buona fede o con ipocrita senso di osservazione del proprio prossimo a rifilarli amici, conoscenti, ai bambini piccoli ti passo i pantaloncini al mio bambino, sono come nuovi, capito? E l'altra fa buon viso, li prende e poi li butta nel cassonetto. Insomma, io vorrei capire che fine facciano gli abiti usati. So che c'è una massa enorme di vestiti che passano di casa in casa, di casa in parrocchia, di in parrocchia in centro raccolta, da centro raccolta a mercatino, da mercatino a luogo in cui si ricicla. Insomma, voglio capire cosa fanno e dove vanno a finire gli abiti usati, e soprattutto vorrei capire da voi cosa ne fate. Io ieri ho messo la domanda su Facebook, questa mattina vedo centinaia di risposte legate all'abito usato. Chi non se ne vuole separare, chi ha una sorta di fobia nei confronti di abiti indossati da altri, sono caricati di tutte le tensioni e di tutti gli elementi, le negatività di una persona, va molto questa parola negatività. Altri dicono che in realtà fa molto piacere ricevere un abito, un soprabito, una giacca, una maglia da un amico o da un'amica, perché è una propaggine dell'affetto di questa persona. Beh, 800240024, oggi cercheremo di raccontare la storia di un abito usato. Quando esce al nostro armadio arriva non sappiamo dove. Come prima cosa stabiliamo quanto vogliamo lungo il pantaloncino. Riportiamo la misura nell'interno gamba. Ad esempio, un pantaloncino lungo 10 cm, segniamo con uno spillo la misura stabilita, che sarà 9 cm per questioni di cuciture. Procediamo ora con il taglio. Per tracciare la linea di taglio misuriamo dal fondo della gamba fino allo spillo. Riportiamo la stessa misura sul lato del fianco. A questo punto prendiamo una riga e tracciamo una linea con il gesso. Ciao ragazze, come promesso oggi sono qui per farvi il tutorial su come stringere dei leggings. Io stringerò appunto questi comprati dal negozio che, essendo una taglia unica, mi stanno un po' grandi e quindi devo per forza stringerli. E allora, questo tutorial va bene anche per dei jeans, Sempre però seguendo delle piccole Guardando su indicazioni. YouTube si vede che in fondo quella che è un'abitudine che sembrava relegata a generazioni che ancora hanno il senso del risparmio, la conservazione, del non buttare via, l'odio per il consumismo, no, invece in realtà c'è una sorta di attività ludica o di passatempo che consiste nel riciclare, nel riadattare, nel ridare dignità e esistenza anche ad abiti usati, ricreando naturalmente con delle operazioni di bricolage qualcosa che sia un ibrido, che non è più segnato comunque dalla sua storia. Altresì esiste il mercatino degli abiti usati, perché la moda vintage in realtà è una forma per rivivere e per immergersi in epoche passate. Molte ragazze, molte donne amano vestirsi con abiti vintage. Allora a questo punto l'abito usato diventa un oggetto di culto, diventa qualcosa che assume un valore quasi di modernariato. Ma questo è un'altra forma. 800240024. Ettore, buongiorno. Sì, buongiorno. Lei cosa fa? È un spacciatore di abiti usati? Ma io, diciamo, ho provato a fare dei mercatini, però, e poi li ho portati nei negozi, quelli in controvendita, come ultima spiaggia, diciamo, nelle campane della Croce Rossa, quelle. Però Anche, bisogna per. capire anche quali, perché oggi uno dei dubbi che vorremmo chiarire è le tante campane colorate di vari colori che Sì, sono. quelle bianche di metallo che praticamente si mettono i vestiti, poi Ma in controvendita sono persone che riacquistano abiti usati? diciamo in controvendita sono dei negozi dove uno porta qualsiasi oggetto o vestito e loro poi danno il Se 50% riescono a del. darlo a qualcuno. Sì, però io vedo anche quando ho provato a fare i mercatini io, insomma, c'è poca richiesta di vestiti, cioè una volta magari anche i giornalini, le cose usate, soprattutto i vestiti non c'è tanto. Anche perché ne trovo tantissimi dappertutto. Lei in che città vive? Io Colle Valdelsa, provincia di Siena. Diciamo che soprattutto diciamo, nelle grandi città è usuale vedere nei mercati rionali la domenica in certi luoghi specifici anche signore e signori di ottimo lignaggio vendere caterve di bancarelle di abiti usati. Ormai l'abito usato, devo dire che non so nemmeno quale sia poi il terminale ultimo, l'acquirente ultimo, forse persone che devono nascondere un malessere e un disagio, perché anche chi ha poca disponibilità di denaro oggi trova, penso, acquistare abiti nuovi a prezzi veramente stracciati. Quindi non capisco più quale sia l'acquirente l'abito usato, se non per una forma di affezione o desiderio di avere quel particolare capo. Pietro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora io sono proprio nel mondo della moda, ho dei negozi di abbigliamento e sono anche un consulente in materia di abbigliamento. Ma rispetto all'usato? Rispetto all'usato, io dagli anni 90, dagli inizi proprio, mi sono trattenuto per ogni stagione un capo, due o tre, di capi che mi avevano colpito prima di fare il cambio di Beh, quindi stagione non nei sono negozi. proprio usati, indossati, sono diciamo residui di collezioni Sì, di... ma poi me li sono anche utilizzati io. Per esempio c'è un capo di Catherine Hamanet che ancora oggi, quando lo indosso, dà molto all'occhio, ecco. Beh, lei sta parlando di abiti di pregio, di firma, Sì, fatti sì, da, sì. confezionati da stilisti. Noi parliamo degli abiti comuni, gli abiti comprati nei negozi, comprati nei magazzini, comprati seguendo alcune mode. Quando passano di moda, non che siano distrutti o disturbati. Che Sì. fine fanno, secondo lei? Allora, io personalmente ogni 2 o 3 anni prendo il mio guardaroba e lo regalo a una parrocchia qui dove abito io. Li regalo perché so che c'è necessità, c'è ancora gente che va cercando di poter avere qualche capo di abbigliamento perché magari non se lo può permettere. E lo regalo a questa parrocchia dove poi viene fatta una distribuzione mensile ai poveri del paese. Faccio questo, insomma. Diciamo, lei lo porta fino alla parrocchia, poi quello che succede alla parrocchia immagina che venga data ai poveri del circondario. Grazie. Claudio, buongiorno. Buongiorno, io sono un autotrasportatore. Adesso ho terminato giusto un viaggio di vestiti usati. C'è una Praticamente camionata di abiti usati. E una camionata di da dove ragazzi usati. venivano? C'è una ditta che li raccoglie nella zona di Prato. Noi Prato andiamo lì. è la patria per per eccellenza del riciclo degli abiti usati. Sì, la ditta però è di Napoli, perché la ditta... Guardi, noi ieri abbiamo chiamato decine e decine di aziende di Prato che, guardando in internet, svolgono proprio un'operazione di recupero di abiti usati. Nessuno ha voluto parlare alla radio, non so perché. Ma perché secondo me c'è un commercio un po' losco. Mi faccia capire, secondo lei, cosa ci vede di losco in questo? Ma io appunto lavoro in questa azienda qua. La lei prende camionate di abiti che vengono da Napoli? Allora, io le spiego il giro. Diciamo che la mia azienda, non faccio il nome, lavora con il Nord Africa. Noi lasciamo i semirimorchi appunto posizionati in queste Caritas nel Nord Italia. Queste camionate, questi semirimorchi vengono riempiti di abiti usati. Quindi sono tantissimi, ma se è un rimorchio di un camion non posso immaginare quanti ce ne stiano dentro. Guardi, io ero 420 quintali, una tara di circa 160, facciare il conto di abiti usati. E ogni quanto lei fa questo carico, che è uno dei tanti? Noi ieri eravamo in 6 della mia azienda e oggi altri 6 camion della mia azienda. Quindi diciamo che c'è un flusso di abiti usati impressionante per il nostro impressionante, paese. Impressionante, sì. Noi andiamo appunto nelle Caritas, prendiamo i semirimorchi, li portiamo a questa azienda di Montemurro, di Prato, dove vengono trasformati in rifiuti, cioè ci danno un modulare. Ma non vengono dati ai poveri, quindi? Non ho capito. Non vengono dati ai poveri? No, praticamente poi noi passiamo nella Caritas, li portiamo a Montemurro, ci danno il questionario, il modulario dei rifiuti, da lì prendiamo e andiamo all'imbarco a Livorno. Quindi non varrebbe nemmeno la pena di mandarli in tintoria, pulirli, lavarli, classificarli, metterci l'etichetta sopra, bambini, giovani spose, uomini di fatica, come fanno, facevano e ancora vedo fare dalle parti di casa mia. Tanto vale buttarli tutti in un sacco e darli, perché se poi vanno a finire in stracci. Vanno a finire sia in stracci, quelli proprio... diciamo usurati, e invece quelli nuovi, quelli un pochettino più decenti, vengono venduti ai mercati del Nord Africa. Voi quindi li comprate direttamente dalle varie Caritas, li acquistate? Diciamo che c'è una compravendita, perché io lavoro per un'azienda di trasporti che fa i voi trasportate per questa azienda qua che fa appunto fa il... Siete il trasportatore, diciamo, del passaggio tra gli abiti ceduti in beneficenza e poi naturalmente venduti per rifare beneficenza a sua volta, sicuramente, però trasformati in stracci. Quindi quello che vuol dire, l'abito in sé perde il suo valore di oggetto, dovrebbe dare conforto a un'altra persona, ma si trasforma in moneta che poi va naturalmente usata per fini benefici. Questo mi sembra. Sì, esattamente, mi hanno detto che diventano tappetini delle macchine, però io fino lì non... Verranno riconvertiti in un altro materiale. La ringrazio, Claudio. Buongiorno Pier Giorgio Benvenuti. Buongiorno. Pier Giorgio Benvenuti è il presidente dell'AMA, che è l'azienda municipale ambiente, che è l'azienda che nel comune di Roma è dedicata appunto alla raccolta, al riciclaggio, al trattamento, allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che mi sembra sia l'unica azienda autorizzata a raccogliere abiti nei cassonetti. Esatto, noi praticamente abbiamo dislocato nella città di Roma 1500 contenitori di colore giallo proprio per la raccolta degli indumenti usati. Per fare una comparazione, nel 2008 erano 504, quindi questi sono armadi semi blindati, diciamo, anche per garantire la sicurezza ai cittadini che vanno a conferire l'abito usato. Nel momento in cui entrano all'interno di queste strutture diventano praticamente rifiuti, ma questi rifiuti per il 95% vengono da noi riqualificati. Perché? Perché una parte, il 45%, viene riutilizzato nei paesi svantaggiati, quindi facciamo riferimento all'Africa. Quindi conservano la loro qualità di essere abiti per coprire persone, ecco, esatto. Non diventano stracci. Un 15% vanno nei mercati del riuso, altri 25% al pezzame, solamente il 5% diventa uno scarto. Tutto questo viene gestito da un'associazione che si chiama ATI Roma Ambiente, e sono cooperative che hanno vinto un appalto e sono appunto con lavoratori svantaggiati, e poi c'è un controllo da parte dei nostri operatori, sono 54 gli operatori che garantiscono... Comunque quello che vorrei su cui vorrei confortare le persone che ascoltano, sì, chi porta i propri abiti in buone condizioni in questo tipo di contenitore è sicuro, e comunque la destinazione è quella di aiutare persone che hanno bisogno, ecco. vengono senz'altro utilizzati e non diventano assolutamente un rifiuto. Vorrei anche dare il dato di quanto materiale viene conferito in questi cassonetti. Nel 2007 eravamo a 2480 tonnellate, nel 2010 siamo arrivati a 6000 tonnellate, il che significa praticamente un trend molto buono. Quindi è una funzione c'è un grande giro continuo di rinnovamento di abiti negli armadi degli italiani, questo viene da pensare. Esatto, pensiamo come questa raccolta da questi specifici cassonetti viene fatta da noi una volta a settimana, quindi è chiaro, e poi il dato di quante tonnellate, quindi 6.000 tonnellate nel 2010, significa che c'è un grande conferimento da parte, una grande attenzione da parte dei cittadini. Noi diciamo sempre, sono cassonetti e vengono distribuiti in tutta la città, ad eccezione del centro storico per un problema soprattutto di sicurezza. L'attenzione è ampia da parte dei cittadini e l'attenzione anche da parte nostra di poter riutilizzare o far utilizzare questi abiti, questi materiali senz'altro a chi ne ha bisogno. Però vorrei, se possibile, solo un istante ancora trattenerla, Pier Giorgio Benvenuti. Volevo sottoporle quello che è stato un servizio di qualche tempo fa del TG3 che riassume un problema su cui molti ci hanno fatto domande, i cosiddetti cassonetti abusivi per la raccolta degli abiti. Ieri vi abbiamo raccontato di come il fenomeno del riciclo in generale, ma anche degli abiti usati, sia in grande aumento nel Lazio e che sia spesso anche un business. Bene, un racconto che si collega in qualche modo alla storia che vi raccontiamo invece oggi, quella di una serie di cassonetti per la raccolta degli indumenti usati, cassonetti però abusivi, che sono spuntati lo scorso agosto nel 20° municipio, non i cassonetti dell'AMA ma della Chiesa Ortodossa Cristiana Cattolica, una cosa che ha insospettito... Ecco, molti ci chiedono di questi cassonetti, che a vederli sembrano quelli dell'AMA, sono gialli. Non so se ancora esistano, ma qualche mese fa ci furono delle segnalazioni anche da parte dei nostri ispettori. Ne vidi uno anche sotto casa mia, rimasi perplesso, non capivo la sigla. E chi erano questi signori? Poi le autorità giudiziarie se ne sono occupate, quindi non erano certamente autorizzati. A Roma, nella capitale, sono autorizzati solamente i contenitori gialli, e questo è un passaggio di comunicazione che è importante fare, e solo questi... E anche loro l'avevano fatti gialli, però mica... Lo so, però c'è l'indicazione c'è giallo giallo. Del logo... quindi è facilmente comprensibile che sono quali sono quelli ufficiali e quindi quelli che non sono appunto non sono quelli regolari. Cioè, questo mi fa pensare però attenzione... Pier Giorgio Benvenuti, mi fa pensare che in realtà il fatto che è stato necessario porre un distinguo, e qualcuno ci aveva provato, che alla fine è un bel business attaccare il bocchettone alla generosità delle persone, o anche il desiderio, diciamolo chiaro, di vuotarsi gli armadi, perché l'abito usato molte volte è un impiccio, uno se ne leva di casa e tutto contento. Comunque potrebbe essere considerato un buon affare da chi entrasse in maniera non proprio regolare nel flusso della grande distribuzione degli abiti usati. Sì, più che un buon affare io direi un malaffare, perché noi svolgiamo un'importante funzione, che è quella di raccogliere appunto questi abiti e garantire ai cittadini di conferirlo in modo adeguato. Dall'altra non mandiamo assolutamente al macero questo materiale, ma anzi gli diamo una funzione sociale, e questo ritengo, attraverso appunto queste associazioni che si occupano specificatamente di questo settore, questo ritengo sia una funzione molto importante dell'AMA. La ringrazio molto, Pier Giorgio Benvenuti. Io devo lasciare la linea alle informazioni della borsa. 800 24 00 24, già vedo molte telefonate anche da altre parti d'Italia, mi interesserebbe capire quale sia il percorso dell'abito usato dal nostro armadio a non si sa dove. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Questi giorni sta provvedendo per l'installazione di alcuni cassonetti per la raccolta di abiti e indumenti usati. In pratica questi cassonetti appartengono all'associazione Onus. Cioè, in pratica questa associazione che fa? raccogliere tutti questi indumenti usati, che non sono solo indumenti, si possono mettere indumenti, si possono mettere scarpe, tutti questi materiali vengono riciclati, tritati, e poi nel momento in cui hanno un prodotto finito, questi percepiscono un guadagno e questo guadagno va a un'associazione Olus. Gli indumenti usati sono una risorsa. I circa 6.000 kg che si raccolgono mensilmente a Pescara contribuiscono anche alla raccolta differenziata cittadina, che nel 2010 ha toccato il 30%. Beh, stiamo capendo che esiste un grande flusso, una marea di abiti usati che va avanti e indietro nel nostro paese. Parte provengono dalla buona volontà di chi pensa che il proprio abito ancora in buone condizioni possa confortare una persona più sfortunata, parte vengono, nella stragrande maggioranza dei casi, dal nostro desiderio di far respirare le nostre case, ormai sono strapiene di roba, l'opulenza dei nostri armadi in realtà ci soffoca, ci impedisce di respirare, apriamo armadi, straboccano di vestiti, ci dimentichiamo degli abiti che abbiamo, c'erano tempi in cui uno aveva soltanto due paia di scarpe, soltanto una giacca, le pezze al sedere, però sempre abiti puliti, questo era quello con cui ci tartassavano la coscienza quando eravamo piccoli. Oggi di abiti ce ne sono una tonnellata, un abito passa di moda, annoia, infastidisce, lo leghiamo a persone e situazioni infauste, quindi vogliamo liberarcene. Beh, il nostro liberarcene è collettivamente condiviso da un'infinità di altre persone, tanto esiste questa marea di abiti usati che va avanti e indietro per il nostro paese. Alcuni mantengono la loro struttura di abito e probabilmente vengono rindossati dopo varie catene, vari passaggi di mano, altri miseramente vengono trinciati, diventano tappetini per auto, diventano stracci, diventano altra cosa. 800240024. Barbara, buongiorno. Sì, buongiorno, signor Nicoletti, è un piacere parlare con lei. Ascolti, niente, noi facciamo una cosa molto banale, probabilmente la faranno in tanti. Siamo tre sorelle, abbiamo tre età diverse, però più o meno abbiamo la fortuna di avere la stessa taglia. Tutte zitelle, no? No. E so, tra le sorelle quando si parlano in tre, sono tre zitelle. No, siamo tutte sposate, conviventi, abitiamo in città diverse, anche abbastanza lontane. Però avete un coordinamento nel riciclo degli abiti usati. Esatto, un coordinamento. Il coordinamento è la mamma, nel senso che lei è quella che ha più spazio anche in casa. Quindi noi, ognuna di noi, quando fa il cambio degli armadi, prepara dei bei sacchi. Quindi tutto e li rifila che... la mamma. E li rifila la mamma. La mamma li cataloga tutti, per tipologia di abito, colore, tutto quanto, e li mette in una sorta di, prepara una sorta di mercatino. Quella volta all'anno, due volte all'anno, tre, non lo so quanto ci si vede, è un motivo per... Ma dove li vendete? Dove esponete questa mercanzia? No, ma non li vendiamo, no, li ricicliamo tra di noi, semplicemente. Ah, ve li scambiate? Esatto, ce li scambiamo tra di noi. Ma non si butta poi... niente, così alla fine il risultato totale, la somma degli abiti è sempre la stessa, il nucleo familiare non si alleggerisce. No, però diciamo che qualcosa poi alla fine non piace a nessuna delle tre, quindi quello che proprio non piace a nessuna poi viene, poi ci sono anche due nipoti, quindi adesso stanno crescendo anche i nipoti. E quindi diciamo, i figli più sfortunati sono quelli più piccoli che si beccano la roba usata e tutti i cugini. No, vabbè, ma deve piacere, cioè di solito succede che le cose piacciono perché non si sa che cosa le sorelle ovviamente fanno la loro vita. Sì, io guardi, mi viene in mente un minuto di silenzio vorrei fare per il mio fratello che va soltanto un anno meno di me, penso che per 15 anni ha messo le mie robe usate, perché era così, a me compravano la cosa nuova e lui smetteva la mia, era sempre così. Ma è così, ma anche per me è stato così con mia sorella grande. Lo so, ma è una tristezza, viva la faccia del benessere, con uno prendere, buttare via e comprare tutto nuovo. Carmine Guanci, buongiorno. Carmine Guanci è presidente della cooperativa Vesti Solidale, che gestisce la raccolta degli indumenti usati a Milano per conto della Caritas. Ecco, è un altro aspetto rispetto a quelli che abbiamo toccato ora. Innanzitutto ci spiega il percorso dell'abito usato quando viene lasciato in parrocchia e poi arriva la Caritas, che succede dopo? Allora, lo scopo del progetto sulla diocesi di Milano è quello di aumentare, diciamo, una cultura del ecosostenibile e quindi promuovere il riutilizzo di questi indumenti. Gli indumenti usati che noi raccogliamo sono raccolti tramite dei contenitori stradali che qui su Milano hanno il colore giallo, quelli della Caritas, e sono nella diocesi diocesi circa 1300 contenitori. Di questi ne abbiamo 500 nelle parrocchie e 800 sul suolo pubblico. Ecco, nelle una volta raccolti, poi che ne fate degli abiti? Allora, stiamo parlando di circa 8.000 tonnellate. Sì, infatti, sono cifre impressionanti. Questo lo sto dicendo. Questi vestiti, grazie a Dio, in una piccola parte vengono utilizzati per vestire i poveri della parrocchia. Però su 8.000 tonnellate significa riempire San Siro. Ci veste un intero continente quasi di poveri. Quindi ciò che serve alle parrocchie, ai centri d'ascolto della Caritas per distribuire ai poveri viene trattenuto nelle parrocchie. Ma voi come scegliete? Quelli, diciamo, in condizioni migliori vanno naturalmente ad esseri umani che li indossano. Esatto, se la parrocchia ha una grossa affluenza di persone bisognose di sesso maschile, tratterrà per sé la maggior quantità di indumenti maschili. E viceversa, se uno al signore tiene abiti la signora. Questo va bene. Ecco, invece tutta lo scopo reale è un'impresa sociale senza fini di lucro che va a riutilizzare questi indumenti rimettendoli nei canali commerciali. Traduco, grazie alla raccolta di questi vestiti ci sono oggi in Lombardia 60 persone che lavorano in regola con contratto di lavoro subordinato per le nostre cooperative sociali e traggono da questo che è vivere per sé e per la propria famiglia. Sono, diciamo, quelle bancarelle di abiti usati che siedono nei mercatini? No, sono coloro che vanno in giro a raccogliere, i vestiti. Di questi, 22 sono soggetti svantaggiati, cioè persone che hanno disabilità fisiche, psichiche o vengono da storie. Quindi siete riusciti a creare, diciamo, una piccola impresa ecosostenibile? Sì, una media, perché sono 60 persone. 60 persone, lavorano, una media impresa, ecco. Alla fine però, diciamo, voi raccogliete, regalate ai poveri e in parte, diciamo, selezioniamo e poi la stragrande maggioranza di questo materiale viene commercializzato. Ma che fine fa? Quando viene commercializzato fa viene ridotto in stracci, venduto nei mercatini? No, dipende dalla tipologia dell'indumento. Esistono sul mercato circa 40-45 tipologie di indumenti usati. Tipo, quindi faccio un esempio per capire. Certo. Allora, dentro ai materiali che noi raccogliamo ci potrebbe essere una camicia ancora in perfette condizioni, mentre ci potrebbe essere la camicia col collo che ormai è inutilizzabile. Diciamo, dal grado di usura si determina la categoria, di classe A, classe B. La qualità dal tessuto e quant'altro. Ognuno di questi capi d'abbigliamento e accessori, borse, scarpe, cinture, ha un valore commerciale. Ci va dai prezzi migliori, ovviamente per i capi di ottima fattura e in ottime condizioni, allo straccio industriale, cioè tutto ciò che non può più essere indossato, che è logoro, che è, viene ridotto in pezzame che viene utilizzato nelle industrie, nei cantieri navali, nelle ferrovie, nelle aziende metalmeccaniche, dalle imprese di pulizie. Quello che lei sta raccontando, perfettamente organizzato e strutturato, è un po' quello che sta nascendo in Embrun, una città come Roma in cui esiste questo fenomeno dei rumeni sparpagliati per la città, che sono cittadini europei, hanno pieno diritto di transitare il nostro paese, però non hanno nessun tipo di risorsa e la loro attività principale è girare per la città con un bastoncino e un trolley della spesa a ravanare dentro i nostri cassonetti. E pur avendoci, diciamo, delle catene così precise di recupero di abiti usati, ancora riescono a trovare delle cose che hanno pur tuttavia, immagino, un loro mercato, perché se loro ci sopravvivono in maniera del tutto indecorosa, devo dire, per loro, e questo è un carico che se ne dovrebbe far qualcuno senz'altro, vuol dire che ancora, nonostante che esista tutto questo enorme e attenta macchina di recupero, esistono ancora dei rimasugli del nostro benessere che permettono a qualcuno di rosicchiare quanto basta per poter vivere. Sì, questo a Milano abbiamo proprio fatto questo progetto per poter fare un po' un salto di qualità rispetto a situazioni di questo tipo che comunque sono presenti anche su una metropoli come quella milanese. Però, ad esempio, noi cosa facciamo? Assumiamo nelle nostre cooperative alcuni di questi rom. Io nella mia cooperativa nello specifico ho 3 rom che fanno la raccolta. Quindi, visto che sono così capaci a fare questo lavoro, lo fanno perfetto. Ma lo fanno in maniera regolare, certo. Nel pieno rispetto alla norma, con un contratto collettivo, con gli assegni familiari, con tutto ciò che è previsto dalla vigente normativa in materia di lavoro. Quindi questo significa che esistono, diciamo, mi esprimo male perché non è proprio il mio campo, ma delle forme di impresa ancora, diciamo, da poter sfruttare nelle pieghe più nascoste delle nostre città. L'organizzazione. La nostra sfida è questa. La nostra sfida è esattamente questa: dimostrare che a Milano nel 2011, avvalendosi di forza lavoro con qualifica molto bassa, vogliamo usare i termini, avvalendoci di forza lavoro che vive ai margini della nostra società, è un po' il, tra virgolette, rifiuto della nostra società. Sì, sì, ma non bisogna aver paura delle parole, esattamente così. Certo. Ecco, queste categorie di persone fanno un lavoro utile alla collettività, perché tutto questo materiale che viene raccolto gratuitamente, senza alcun costo per la collettività, se la municipalizzata dovesse smaltire questo materiale, tutti i cittadini milanesi dovrebbero sostenere un costo. Un costo che potrebbe essere intorno a 100 euro a tonnellata. No, no, ma perfettamente chiaro, perfettamente chiaro. È lì dovevo arrivare. Il flusso enorme e indiscriminato degli abiti usati in alcuni casi trova una sua proficua, provvida e utile amministrazione, come nel vostro caso. A tra un istante, dopo le informazioni del traffico. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. È un video per darvi dei consigli su come modificare dei capi d'abbigliamento, delle cose che magari non mettete più dentro nell'armadio perché vi siete stancati, magari, insomma, così. Per modificarle, dai un tocco di novità. Allora, questi qua, per esempio, erano veramente tantissimi anni che ce li avevo. Ho messo, per esempio, qua tutta una fila di strass, quelli sul supporto di plastica. Questo è l'autorecupero dei propri abiti. Una ragazza che su YouTube spiega come aggiusta gli abiti, li ricicla, li ridà una forma. Qualcosa che molte sue coetanee giudicherebbero vergognoso, indossare qualcosa che non appartiene ai canoni più esasperati dell'ultima moda. Lei almeno trasforma questo suo bricolage, non si sa se di necessità fa virtù. In ogni caso è una delle forme di recupero o di interesse rispetto all'abito usato di cui stiamo parlando questa mattina. Gaetano, buongiorno. Buongiorno a lei. Le volevo segnalare una cosa. Nell'immediato dopoguerra arrivavano dall'America centinaia di balle di vestiti e a Ercolano, in provincia di Napoli, divenne in pochi anni la città delle pezze, perché c'era una grande economia proprio su questi abiti usati e si trovavano perfino i dollari nelle camicie. Ma mi sembra che continui il mercatino ercolano. Io sì, ne sentivo parlare negli anni della mia giovinezza, nel senso, se sì, andava. Ma è un poco più economico, qualcosa di cinese, qualcosa di tutto americano. Come era via Sannio a Roma fino a qualche anno fa. Esatto. In famiglia invece, mia moglie regga in chiesa quanto può, io invece solo al mio barbiere, che qui sono coetaneo, ho regalato le giacche impermeabili, una gialla, una rossa e una blu, e me lo ricordo ancora, e quando li metteva avevo piacere che le tenesse addosso. Io ho scarpe inglesi, secondo me hanno più di 30 anni, rossa amaranto, comprate a Londra, giallo scuro, agli anni 80, così, quando sono stato fuori. Tempi di Carnaby Street, in cui gli italiani partivano, andavano a Londra a comprarsi scarpe e dischi. Nicoletti, sono ancora nuove, cioè non nuove, diciamo, sono usate. Sono punti di vista, certo. Io le scarpe usate, se proprio non avessi un bisogno viscerale, non le metterei da un altro. Poi, ma ora non si può fare, che è un pezzo di plastica attaccato con un poco di colla e si apre. Non esistono le scarpe cucite, a meno di qualche artigiano. Eh sì, ma ci ha messo i piedi dentro lei per tanto tempo, adesso non per niente, con sommo rispetto, ma fa un po' senso. No. Però quel fatto dei rumeni e di Rom esiste anche a Napoli? Sì, ma esiste in tutta Italia. Sì, sì, esiste. E hanno una sorta di capillarità nella loro raccolta. Io già prevedo da qui a qualche anno avranno i loro primi negozi, faranno anche loro quello che sta già facendo a Milano come esperienza pilota la Caritas. Lo fanno i cinesi nel centro di Napoli, nel centro antico che hanno occupato. Loro trattano questo tipo di merce e fanno finta che hanno merce italiana invece merce cinese. È il momento della loro economia. Buongiorno Fioravante. Buongiorno. È il suo nome, Fioravante? Il mio nome è Fioravante, sì. Io sono originario della zona di cui parlava prima il signore, sono nato a Ercolano, ma vivo oramai da 40 anni a Prato, che secondo me è la capitale. Quindi è passato, diciamo, da capitale degli stracci a capitale degli stracci. Certo, mio padre faceva questo. Ah, quindi per mestiere. E poiché dopo esaurita la fase in cui si poteva padre lavoravano in quello che gli americani avevano lasciato, i famosi campi Ararark, non mi ricordo bene. Mio padre poi è venuto a Prato a comprare gli indumenti usati, essendoci qua un'industria che campa da un centinaio d'anni sul riciclo di quello che è il prodotto tessile, il rifiuto tessile, che possono essere giacche, pantaloni. Viene ricreato proprio un tessuto a Prato attraverso gli abitanti. Ma per la storia di Prato, il motivo per cui Prato riesce a sconfiggere gli inglesi e i francesi negli anni 50 è questa bravura nel riutilizzare gli stracci per fare tessuto nuovo. E anche il motivo per cui i cinesi adesso hanno sconfitto i pratesi. Ma è diverso, è differente la cosa. Però volevo uscire da questa trasmissione che ha un po' qualcosa anche di patetico, un po' di melanconico. Patetico? Patetico. Ascolta, parliamo di qualcosa che esiste. Sì, però tutta questa visione un po' melanconica, patetica, la puzza di cavolo stantio nelle scale, come dice lei, perché poi dagli stracci tutto ciò si fa anche altro. Io spesso ho l'occasione di lavorare, penso, con il cinema, con la televisione. Notte prima degli esami è stato un film prodotto con abiti usati, cui sono stato il fornitore, non per vantare, ma molto altro. Sto lavorando attualmente alla pellicola sul racconto della Mazzantini e anche lì ci sono queste cose. Cioè, vorrei uscire da questo mondo un po' triste, un po' melanconico, e ridare valore a questa capacità di... Ma la melanconia ha un suo valore estetico. Vabbè, ridare valore a questa grande attività. È la sfiga che fa tristezza. Parlarne in allegria, stando bene, è la cosa più bella del mondo. Ci spendiamo soldi per fare i pannelli solari, se poi andiamo a vedere che 100 kg di indumenti usati alla fine dell'anno recuperano più energia di 3 pannelli. Ma infatti io questa mattina per questo ne voglio parlare, per questo mi interessa. Grazie Fioravante. Passiamo a Daniele. Daniele. Sì, pronto, buongiorno. Grazie per avermi fatto. Vado al punto, che siamo proprio in conclusione. No, niente, io la mia esperienza è che io ho lavorato nel campo del riciclo. Facevo la cernita degli stracci usati per rifare il tessuto nuovo, il cardato. E anche oggi l'80% di tutte queste, diciamo, raccolte umanitarie vengono portate a Prato. Ma il tessuto viene fuori cos'è? Quel famoso spigatino siberiano di Fantozzi, quello lì? Sì, quello lì. Oppure le coperte per l'esercito, tutti gli indumenti per l'esercito erano tutti fatti con quel materiale lì. Sì, non è che sia proprio capi... Che ispirano infatti, ovviamente. No, lo spigatino siberiano e le coperte, quelle da cavallo grigio-verdi dell'esercito, quella roba Sì, quelle non si adopravano quando si andava a militare, che c'ero anch'io. Adesso bene. Tutta roba che le piaghe da decubito che mi hanno procurato con le coperte, lo ricordo bene. Sono un po' ruvide, tra virgolette. Sì, un po' ruvide, sì. No, comunque l'80% di queste raccolte vengono comunque mandate a Prato, anche perché chi le raccoglie, chi le trova, a gratis la manodopera per poter, diciamo, dividere quelli che sono gli indumenti buoni utilizzabili da quelli che non sono più utilizzabili, portandoli a Prato, poi li vendono a peso a queste aziende che fanno questo recupero e queste situazioni. Vabbè, grazie Daniele, un'idea ci siamo fatta, no? Ero molto curioso di sapere che fine facesse la giacchetta o il pantaloncino che buttiamo nel cassonetto differenziato o regaliamo al poveretto, e forse questa mattina un po' l'abbiamo capito. Grazie Fabrizio Intonte e Valerio Rocchetti, a domani. Alors tous deux on est parti dans tourbillon de la vie, on a continué à tourner tous les deux enlacés. Tous les deux enlacés.